l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'altra Europa. Come ogni settimana siamo qua per raccontare l'Europa delle persone, delle storie, delle possibilità e delle opportunità. Quella che è l'attualità economica e politica viene narrata giorno per giorno da Radio 24, anche in tutte le sue criticità. Noi il sabato cerchiamo così di proporvi anche altri punti di vista, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Euronetplus.eu è il portale che, come sempre, vi consiglio di visitare. Tante notizie, tante informazioni in tante lingue diverse. Ci trovate anche sui nostri account Euronet Plus R24 oppure @ Federico Taddia, Twitter e Facebook, le nostre bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Anche oggi tanti ospiti, però partiamo da un premio molto importante, il premio Cittadino Europeo 2015. Disteso sul fianco, passo il tempo, fra intervalli di vento e terra rossa. Cambiando, cambiando prospettive, cerco di capire il verso giusto, il giusto slancio per ripartire. Questa partenza è la mia fortuna, un orizzonte che si avvicina. Sotto il mio camion c'è la mia cucina. Intanto aspetto, aspetto, aspetto che il fango liberi le mie ruote, che la pianura calmi la paura, che il giorno liberi la nostra notte. Tutti insieme siamo tanti, siamo distanti. Life is sweet. Sono Fabi, Silvestri e Gazzè che cantano questa canzone per coronare il loro viaggio, un viaggio in Africa che hanno fatto insieme agli operatori della ONG QAM Medici con l'Africa. Perché? Perché questa canzone? Proprio perché il QAM è uno dei vincitori italiani del premio cittadino, il premio voluto dal 2008 dal Parlamento Europeo ai cittadini che con le loro attività si sono distinti per rafforzare l'integrazione europea e il dialogo tra i popoli. Tra i vincitori quest'anno c'è l'Istituto di Medicina Solidale Onlus, Don Michele De Paulis, Emmaus, Gaia Ferrara, Associazione Viandando e poi appunto QAM Medici con l'Africa. Do il benvenuto al direttore Don Dante Carrato. Ciao Don Dante, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno, buona giornata a tutti. Insomma, ieri è stata una giornata importante, c'è stata questa premiazione presso gli archivi storici dell'Unione Europea a Firenze. Che significato ha per voi questo premio, questo riconoscimento? Ma credo proprio un po' come accennavi tu prima, cioè il fatto che ci sentiamo cittadini europei nell'ultimo miglio del mondo. Noi lavoriamo in paesi dell'Africa subsahariana e in particolare proprio in queste ultime diramazioni dei sistemi sanitari, gli ospedali rurali, i centri sanitari e così via. E per noi questo premio indica che anche lì vogliamo portare quel patrimonio di valori, di tradizione che caratterizza l'Europa. E in questi giorni vediamo idranti, muri che salgono e che crescono. Ecco, noi pensiamo anche di essere in qualche maniera portatori di quei valori che nascono della solidarietà, della giustizia, dell'attenzione al più debole, che costituiscono il tessuto connettivo, io credo, di questo patrimonio europeo, italiano ed europeo che andiamo a costruire. In questo senso il premio ci consolida e ci motiva ulteriormente a continuare a fare questa nostra parte lì, in quell'ultimo miglio del mondo. E Don Dante Carraro, tra l'altro ho sbagliato il cognome prima, scusami, questa parola con, medici con l'Africa, no? Tante volte venite definiti medici per l'Africa e so che tu dici no, con, e ci tieni a sottolinearlo, questa differenza. Può essere la parola chiave anche per l'Europa? Sì, assolutamente. Nel momento in cui noi pensiamo alla nostra vita, ai problemi, alle difficoltà, alle prospettive future anche, a un futuro migliore che vogliamo, lo devi costruire, lo è bello costruirlo insieme con l'altro, insieme con l'altro, come dire, ragionando e capendo le difficoltà insieme e insieme costruire le soluzioni del futuro. Quindi il PER identifica che io ho la soluzione in tasca e tu no, che io posso e tu no, invece il CON identifica proprio uno stile, un modo che oltre a essere più giusto è anche più efficace. Non c'è dubbio che questa è l'esperienza anche che stiamo facendo nel contesto africano, e probabilmente, anzi ne sono assolutamente convinto, che ci possa aiutare moltissimo anche oggi qui nei nostri paesi in Europa con le situazioni che viviamo. Certo, tanta solidarietà ma anche tanta competenza, che è quello che fate voi con i vostri dottori, con i rapporti strettissimi che avete con le università. Anche questo è sicuramente un lato determinante di quello che fate. È proprio così, noi crediamo che la cooperazione debba stare in piedi con diciamo il pilastro della passione, dell'umanità, della compassione nei confronti del più debole, del più povero, però dall'altra anche sentire che siamo professionisti sanitari e il contributo vero che noi possiamo dare all'Africa, a uno sviluppo migliore, a un futuro diverso, passa anche fortemente attraverso una professionalità, una competenza, che vuol dire studio, che vuol dire preparazione, che vuol dire formazione prima di partire, e questo è il secondo pilastro anche del nostro lavoro. Questo è il premio Cittadino Europeo 2015, siamo ben felici dei 4 riconoscimenti. Ricordiamo medicinconlafrica.org, il sito per conoscere meglio le attività del QAM. Ciao Don Dante, grazie, complimenti. Ciao a te e a tutto il tuo team, ciao e buon lavoro. Grazie a tutti voi, ciao Federico. Adesso ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con l'Altra Europa. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta L'Altra Europa. Per riapriamo con questo brano della colonna sonora di The Social Network. Perché? Perché parliamo della Silicon Valley che apre le porte alle start-up europee dal 21 al 25 settembre, infatti, organizzata dall'Unione Europea, patrocinato da Startup Europe ed organizzata da Mind the Bridge, la fondazione per l'innovazione, per le nuove tecnologie, l'innovazione che prende corpo con le startup, ha organizzato questo incontro. Sono 15 startup europee che voleranno nella Silicon Valley in California per una full immersion, per incontri, per riflessioni, per essere sia vetrina sia così stimolo per altre contaminazioni. Tra le startup ce n'è una anche italiana, diamo il benvenuto a Ugo Parodi Giusino, che è CEO e fondatore di Mosaicon. Ciao Ugo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Intanto, cosa significa essere stati selezionati tra le 15 startup europee in partenza per la California? Ma per noi un bellissimo riconoscimento, frutto di tanti anni di lavoro, è chiaramente una vetrina fra le più importanti nel nostro settore, anzi probabilmente la più importante, che testimonia di in quel contesto che chiaramente dietro un'azienda c'è una tecnologia, c'è un'innovazione che la distingue dal mercato e che sicuramente ha un potenziale nel mercato. Mm-hmm. Cos'è Mosaicon? Mosaicon è una società che ha rivoluzionato il modo con il quale si producono video e si distribuiscono video online, per cui è un modello che diciamo permette ai creativi, ai videomaker, a chiunque è coinvolto nel processo di creazione di video a lavorare grazie a dei brand che finanziano contenuti video. Startup siciliana, se non erro, l'Europa per voi cosa rappresenta? Ma secondo me in questo momento bisogna credere nell'Europa, perché chiaramente è un mercato più ampio di quello nazionale, e nel momento in cui diventasse veramente un mercato comune creerebbe sicuramente un potenziale molto importante per tutte le aziende, per cui noi crediamo che l'Europa deve essere uno dei principali mercati. Ad oggi uno dei principali temi con rispetto per esempio agli Stati Uniti è che, essendo gli Stati Uniti un unico mercato, è molto più facile fare subito dei numeri più importanti, cosa che in Europa oggi è ancora difficilissima perché sono tanti paesi diversi con lingue diverse. L'European Innovation Day è l'evento di apertura di questa 5 giorni appunto delle Startup Europe Coming to Silicon Valley. Andate a cercare, andate a vedere o andate a farvi vedere? Ma allora, l'evento nasce per fare una presentazione delle 15 scale up, per cui le aziende che più sono cresciute e che più hanno dimostrato un potenziale in Europa, per cui è un'occasione per fare vedere che l'Europa, diciamo, vuole innovare, vuole stare sul mercato in quel contesto. Chiaramente diventa anche un'occasione per incontrare poi appunto alcuni dei più importanti personaggi proprio della Valle, che sono poi le persone che spesso aiutano a far crescere le aziende e questo tipo di mercato. Ugo, è diversa la cultura della startup in Italia rispetto al resto d'Europa? Ci sono delle differenze? Ma allora, la startup di per sé secondo me è assolutamente la stessa identica cosa, perché una startup non è altro che un'azienda che con l'innovazione vuole crescere velocemente, vuole portare avanti un progetto. Quello che poi cambia è il network, i contatti che si possono avere in un determinato contesto, e poi anche la facilità con la quale si riesce a reperire magari dei fondi, soprattutto all'inizio, fondamentali per partire. In Silicon Valley quel mercato si è diffuso proprio perché è molto facile reperire anche grossi capitali da investire poi in dei progetti che all'inizio hanno bisogno di capitali. Fondata nel 2010 in Sicilia, con sedi a Londra, Madrid, Milano, Roma, Mosaic, oggi ha oltre 70 dipendenti, un esempio virtuoso ma esempio anche replicabile. Vi sentite un'eccezione? Ma a me piace vederla come una normalità in un futuro nel quale io credo molto. Noi abbiamo investito molto nell'Italia, nella Sicilia, e pensiamo che sia un futuro fatto di innovazione, di tante cose sane e belle. Chiaramente non è stato facilissimo e non è facilissimo, però sicuramente alcune componenti aiutano. Il web, per esempio, in questo è un supporto importantissimo. Uno può essere in Sicilia, può essere in Australia, ma determinate cose sono abbastanza simili, per cui noi cerchiamo di farci forza appunto anche grazie al web, e pensare che non siamo in assoluto penalizzati rispetto ad altri. Mosaicon.com per conoscervi meglio, sec2sv.com invece per conoscere questa 5 giorni di incontri tra appunto l'Europa e la Silicon Valley, patrocinata e voluta dalla Commissione Europea. Ciao Ugo, complimenti a te e a tutto il tuo team, e in bocca al lupo. Grazie, a presto, crepi. Buon lavoro. Grazie. L'Europa. Un continente ricco di nazioni davvero diverse fra loro. È difatti da poco tempo che siamo usciti dal lungo periodo durato secoli e secoli in cui diversi popoli combattevano tra loro per imporre il proprio dominio o per difendere le proprie usanze, i costumi, i valori, il commercio e la propria moneta. La propria moneta. Già, perché anche con l'introduzione dell'euro, parte delle nostre classi politiche continuano a pensare al guadagno personale e al tornaconto politico, piuttosto che pensare a garantire i valori e i diritti dei cittadini europei. L'intento, difatti, non è quello di uniformarsi perdendo le persone. Quella che state ascoltando è l'Europa, che vorrebbe Matteo Valenti. Si è diplomato lo scorso anno, è di Latina, 19 anni, ed è uno dei 20 vincitori del concorso L'Europa che vorrei, organizzato da EU News in collaborazione con la Commissione Europea. Ciao Matteo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti. Ciao, e diamo il benvenuto anche al direttore di EU News, Giacomo Robustelli. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno. Tanto ringraziamo Giacomo che sei nel pieno di questa seconda edizione. Potremo mai governare l'Europa? Questa 3 giorni di riflessioni, incontri, e all'interno di questa 3 giorni appunto c'è stata anche la premiazione del concorso. Partiamo proprio da questo. Come mai avete scelto proprio di partire dai giovani? Perché vogliamo costruire insieme a loro l'Europa che gli vogliamo lasciare. come giornale ci diamo l'obiettivo di portare il dibattito sull'Europa ad un livello non solo ideale ma anche di contenuti concreti, ora che tutti dicono che l'Europa debba cambiare e anche noi siamo convinti. Allora l'idea di introdurre un convegno di 3 giorni con ministri, commissari, esperti, con le idee dei ragazzi ci sembrava la forma più appropriata per darci lo stimolo giusto. Ragazzi e giovani che hanno usato il loro linguaggio, il video, la fotografia, il testo per raccontare questa Europa, 20 vincitori che voleranno poi a Bruxelles come premio il 24 e 25 novembre. Matteo, ti abbiamo preso un po' così come simbolo dei 20 vincitori. Nel raccontare la tua Europa, da dove hai scelto di partire? Allora, diciamo che sono partito dai quelli che sono i principali problemi che comunque ultimamente si sentono, che può essere su internet, in radio, sui giornali, e diciamo cercare di analizzare molto velocemente più o meno le cause e le soluzioni. Il problema è che si vuole sempre cooperare assieme, il problema è che poi non lo si fa. Ci sono le idee ma non vengono applicate, le soluzioni ci sono in realtà. E come mai che hai scelto di partecipare? Allora, ho scelto di partecipare perché sono un po' di anni che comunque mi interesso di politica, è comunque una delle mie passioni più grandi, e comunque la possibilità di raccontare in poco tempo la mia visione dell'Europa e poi andare addirittura a visitare il Parlamento e la Commissione Europea mi sembra una gran cosa. Ci credi nell'Europa tu? Ci credo, però va affrontata in un'altra maniera. Sentiamo Giacomo, questa altra maniera è quella che state cercando in questi giorni all'interno del convegno? Sì, perché ormai c'è un sentire comune, devo dire, sia della politica che dei cittadini e anche dei giovani. Questa Europa così non va bene, c'è bisogno ora di fare un netto passo avanti. Quindi noi la affrontiamo in questi 3 giorni, ieri e stamattina, sulla parte più nota a tutti, cioè la governance dell'euro, le questioni macroeconomiche, lo sviluppo e la crescita. Ma poi raccontiamo anche i mercati unici, quindi i casi che in passato sono stati di grande successo e che potranno esserlo anche in futuro, dal punto di vista economico ancora, come quello del digitale e il mercato unico dell'energia. Però poi non possiamo trascurare i temi più sentiti del momento, come l'immigrazione, di cui parleremo domani con il ministro Alfano, è un tema più costituzionale, cioè come questa Europa debba cambiare nella sua governance complessiva per superare lo scoglio su cui si trova oggi. Giacomo, da giornalista, è comunque un momento stimolante per raccontare questa Europa? È un momento direi ottimo. Io scusa, se io non sono giornalista, io sono l'amministratore della società, quindi sono la parte più tecnica. Certo, scusa. È Lorenzo, mio fratello, il direttore, ma quello che condividiamo, noi siamo partiti con un progetto che era rivolto chiaramente a una nicchia molto piccola di persone competenti sull'Europa. E ci siamo accorti a 2 anni di questo cammino, comunque difficile ma affascinante, che oggi, cioè in questi mesi, si è aperta una finestra. Grazie alla spettacolarizzazione della crisi dell'euro, chiamiamola così, innescata dal confronto fra la Grecia e le cosiddette istituzioni, grazie al dramma dell'immigrazione e forse in parte anche al cambio di atteggiamento della Commissione europea su questi temi, l'Europa sta entrando in un dibattito molto più allargato, molto più pubblico e speriamo anche molto più di contenuti reali e di soluzioni reali. Matteo, ti piace come viene raccontata l'Europa? Diciamo che è raccontata in un modo in cui secondo me anche tutti gli altri vincitori e anche tutti gli altri partecipanti non la vogliono vedere in questo modo, perché comunque l'Europa che vogliamo vedere è un'Europa che ci fa sentire sì cittadini, ad esempio noi cittadini italiani, però vogliamo anche sentirci cittadini europei. E quest'unione, a quanto vedo, è solo nominale, non c'è una vera e propria unione tra gli stati appartenenti. Grazie a Matteo Valenti, grazie a Giacomo Robustelli, www.eunews.it per conoscere l'intero programma del convegno e per seguire gli aggiornamenti quotidiani invece della testata online. Ciao e grazie. Ciao, grazie Federico. Ciao. Ciao, grazie. Adesso ci fermiamo alla pubblicità, poi torniamo con l'Altra Europa. Avremo con noi l'astronauta Paolo Nespoli. L'Altra Europa. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Ora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, Federico Taddia, per trovarmi anche su Twitter e Facebook con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare e alle informazioni relative ai nostri euro post-it. Vogliamo nello spazio, perché è stata inaugurata ieri a Milano una bellissima mostra che sta facendo il giro d'Europa, una mostra unica nel suo genere, European Space Expo. Scopri quanto spazio c'è nella tua vita. Ingresso gratuito, aperta fino al 4 ottobre. Una mostra voluta dalla Commissione Europea in collaborazione con l'agenzia del GNS, l'Agenzia Spaziale Europea e i programmi spaziali europei Ennius, Galileo e Copernicus. Poco fa abbiamo contattato l'astronauta Paolo Nespoli, era presente all'inaugurazione e lui ci ha presentato la mostra. E questa mostra è un'azione dell'Europa per dimostrare un attimino ai cittadini come i loro soldi in un certo senso sono investiti mettendo lo spazio a disposizione dei cittadini. Questa mostra itinerante ha fatto già 28 capitali europee, 28 città, grosse città europee, ha avuto un interesse molto, molto alto. Io l'ho già vista in un paio di altre posizioni e devo dire che è sempre interessante vedere questa gente che passando entra, guarda questi satelliti, queste immagini e finalmente tocca un attimino con mano come dallo spazio sia possibile monitorare lo stato, che ne so, delle foreste, dei fiumi, cercare di capire quali sono gli agenti inquinanti o come per esempio il sistema Galileo sostanzialmente ci aiuterà nella navigazione, nella vita di tutti i giorni e ci aiuterà a fare in modo che le cose di tutti i giorni diventino sempre più facili. La mostra fa anche vedere un attimino come questi investimenti non sono investimenti fatti con soldi buttati nello spazio come ogni tanto si pensa, ma sono soldi che vengono utilizzati dall'industria, dalla ricerca, vengono utilizzate qui sulla Terra per dare non solo lavoro ma per dare la possibilità ai nostri ricercatori di pensare a cose future e costruirci, farci delle cose sempre più nuove, sempre più utilissime che poi verranno mandate nello spazio. Quindi è una cosa molto bella e invito tutti ad andare a vedere la mostra. E il fatto che queste ricerche abbiano carattere e vocazione europea, che significato ha? Ma i programmi europei spaziali storicamente sono stati iniziati dall'Agenzia Spaziale Europea quando non c'era ancora un'entità europea. Dopodiché l'Europa come quasi come nazione, come dovrà essere, dovrebbe essere in futuro in un certo senso, ha cominciato a entrare in questi progetti e a fare delle attività che sono di interesse comune, di interesse comunitario. E quindi l'Unione Europea ha sponsorizzato questi progetti. Rimane sempre una dualità con l'Agenzia Spaziale Europea perché nell'Agenzia Spaziale Europea ci sono rappresentati nazioni come per esempio la Svizzera, la Norvegia e altre nazioni nazioni che non sono parte della comunità europea, e quindi c'è un attimino di duplicazione nelle cose, ma per esempio molti di questi progetti, come il progetto satellitare del GPS satellitare europeo Galileo, sarà un progetto congiunto tra la comunità europea, l'Unione Europea, che dà le direttive politiche in un certo senso, e l'Agenzia Spaziale Europea, che implementa come ente in grado di costruire una cosa di questo tipo. Ma quando all'interno della stazione orbitante fate esperimenti scientifici, si pensa alle ricadute che potranno avere nella quotidianità? Abbiamo in testa solamente questo, perché innanzitutto non siamo noi, non sono io come astronauta che decide che tipo di esperimenti vanno fatti sulla stazione, è la comunità scientifica mondiale che si mette assieme e giudica la qualità di proposte che vengono fatte da singoli o da agenzie o da industrie per poter fare qualcosa nello spazio. Questo qualcosa di solito viene portato nello spazio e viene fatto lì perché lì nello spazio, perché si può fare solo lì. Se è una cosa che si può fare sulla Terra, è inutile farla fare sullo spazio. Quindi c'è un giudizio tecnico molto forte, molto selettivo, per fare in modo che questi esperimenti, queste attività, queste dimostrazioni tecnologiche possano essere portate nello spazio. L'idea è quello di andare avanti da un lato con la ricerca di base, cioè sperimentare, capire, usare le condizioni che ci sono nello spazio, non ci sono sulla Terra, per capire di più e allargare le nostre conoscenze, dall'altro per eseguire delle dimostrazioni tecnologiche, perché sulla Terra, non essendoci la forza di gravità, è un po' difficile cercare di fare queste cose senza la forza di gravità. L'idea è quella di imparare, l'idea è quella di scoprire, l'idea è quella di trarre vantaggio da questo ambiente speciale che ci insegna delle cose che sulla Terra non potremmo vedere o capire. E lo spazio migliora la vita anche nello spazio. In questi anni com'è cambiata la vita di un astronauta? È tutto più agevole ora? No, beh, diciamo che andare nello spazio ha una molteplicità di ruoli. Oggi noi andiamo nello spazio in orbita bassa terrestre, cioè non lontanissimi dalla Terra, orbitiamo attorno alla Terra e stiamo in questa stazione, in questa casa laboratorio, perché lì possiamo fare delle cose speciali che non possiamo fare sulla Terra. Ma l'astronautica vera, quella di base, è un'astronautica più rivolta verso alla scoperta, all'andare nei posti impossibili, a trovare cose nuove, e quindi usiamo la Stazione Spaziale Internazionale come un posto per testare delle tecnologie, capire di più che cosa vuol dire prendere un essere umano e tenerlo in situazioni confinate, isolate per mesi, come probabilmente sarà se riusciremo ad andare su Marte, per esempio. Un viaggio di ritorno, d'andata e ritorno su Marte, durerà un anno, due anni, tre anni probabilmente, e quindi è forse meglio che sperimentiamo tutte queste tecnologie, ci prepariamo con un passo alla volta, prima sulla Stazione Spaziale Internazionale, poi magari sulla Terra, e poi finalmente andremo su Marte. Quindi da un certo punto di vista è vero anche che la Stazione Spaziale Internazionale ci permette di testare delle tecnologie che poi verranno usate in futuro, ma queste non sono tecnologie fuori dal mondo che servono solo per lì, servono alla fine, vengono anche usate nella vita di tutti i giorni. Cioè, se uno trova un modo migliore per comunicare, più semplice, più veloce, perché andare su Marte vuol dire parlare con qualcuno che ti sta a 20 minuti, mezz'ora di distanza con comunicazioni via radio, vuol dire anche trovare degli algoritmi e delle cose che poi vengono utilizzate sulla Terra. Nespoli è stato scelto come prossimo astronauta italiano per il suo terzo volo. Intanto se lo aspettava, e poi come sarà la preparazione, uguale a tutte le altre? Ma l'assegnazione è arrivata quasi all'improvviso. A dire la verità, io mi aspettavo una selezione prima, qualche anno fa, appena tornato dalla stazione, fresco, c'erano delle possibilità, e invece ci è voluto un po' di tempo, e niente, mi sento onorato del fatto che l'Italia abbia voluto di nuovo darmi questa responsabilità di andare in orbita e da da un lato portare a termine questo lavoro, dall'altro in un certo senso anche rappresentare l'Italia. Le preparazioni sono, la preparazione è più o meno la stessa, diciamo che questa volta la faccio con un pochettino più di pace tra virgolette, perché non devo imparare una lingua nuova, non devo imparare un veicolo o come pilotare un veicolo nuovo, sicuramente ci saranno degli esperimenti nuovi e quindi mi dovrò dar da fare sia per riprendere tutte le qualifiche, per tutte le certificazioni, che per imparare nuovi o addestrarmi su nuovi esperimenti. So già che probabilmente mi troverò bene, che mi comporto bene, che mi sento bene in assenza di gravità, e che è piacevole, per me è piacevole stare lassù e lavorare lassù da operaio extraterrestre, facendo un pochettino, dando il mio lavoro per il beneficio di tutti, e questa cosa mi fa estremamente piacere e onore. Ringraziamo l'astronauta Paolo Nespoli, vi ricordo European Space Expo fino al 4 ottobre presso i giardini Indro Montanelli a Milano. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Time to move. Ti piacerebbe vincere un biglietto ferroviario valido per attraversare tutta l'Europa in 22 giorni? Allora partecipa al concorso Time to Move, creando una cartolina del luogo in cui vivi. Scatta una foto del tuo paese o della tua città con una didascalia che ne riveli il nome e caricala sul sito timetomove.info o sulla pagina Facebook di Eurodesk. Potrai utilizzare anche tecniche grafiche come il disegno, il collage o la pittura. Una volta caricata l'immagine, avrai la possibilità di essere votato e di votare le foto degli altri. Al termine del concorso, Eurodesk selezionerà le due cartoline migliori tra le 20 che avranno ricevuto più like. I due vincitori riceveranno il biglietto per un Interrail di 22 giorni. Il concorso è organizzato da Eurodesk nel quadro della campagna Time to Move, che si svolgerà dal 21 settembre al 4 ottobre 2015. Tutte le informazioni sul sito timetomove.info. L'altra Europa. Questa puntata dell'altra Europa toccando un aspetto che forse troppe volte viene ignorato, ed è quello della felicità, una parola che appunto non spesso, raramente si sente abbinata al concetto di Europa. E tutto ciò lo facciamo insieme a Romina Boarini, economista dell'OCSE e a capo del team statistico che lavora sul Better Life Index. Quindi si studia l'economia anche non solo in termini produttivi, non solo in termini numerici, ma cercando probabilmente di analizzare anche quella che è la qualità della vita. Ciao Romina, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie. Economia e felicità è un binomio che va al di là dei numeri? È un binomio che sicuramente va al di là delle nozioni classiche, dei modelli classici che sono sempre stati utilizzati nell'economia. La visione tradizionale dell'economia è che diciamo il PIL o in generale gli indicatori macroeconomici danno una buona sintesi dello stato di benessere di un paese o di una nazione, e invece questo nuovo lavoro che l'OCSE ha cominciato insieme a molti altri istituzioni, molti altri studiosi nel mondo intero, cerca di ampliare la nozione di benessere e in particolare prendere in conto degli elementi di benessere non materiale, mm-hmm. e per cer- diciamo, cercare di ottenere una migliore fotografia e una migliore comprensione della qualità della vita dei cittadini. Ok, e analizzate la felicità personale o la felicità sociale, cioè di un gruppo, o se c'è differenza anche in queste due analisi? Allora, l'OCSE introduce nella sua definizione di benessere anche la nozione di benessere soggettivo. Non la chiamiamo direttamente felicità, perché felicità è un concetto molto difficile da catturare, sicuramente con dei numeri, è stato discusso naturalmente da filosofi e da molti altri studiosi, scienziati, eccetera, quindi non abbiamo l'ambizione di catturare la felicità. Parliamo invece di benessere soggettivo, che si riferisce, diciamo, a una nozione di percezione, come le persone percepiscono la qualità della loro vita e se ne sono soddisfatte. In particolare questo indicatore, uno degli indicatori che l'OCSE include nel Better Life Index, questo indicatore di soddisfazione personale, si riferisce alla percezione personale, quindi non c'è, diciamo, l'aspetto della felicità del gruppo. Però ci sono altri indicatori che non sono indicatori di soddisfazione, ma sono per esempio indicatori che catturano l'importanza del gruppo, l'importanza delle relazioni sociali, e questi indicatori catturano e misurano il benessere più, diciamo, sociale, quindi, diciamo, al di là della sfera individuale, strettamente personale dell'individuo. Mm-hmm. È un aspetto nuovo, anche magari amplificato dal diffondersi dei social network? Assolutamente, è un aspetto molto nuovo, è direi sicuramente tra le novità del Better Life Index, nel senso che l'OCSE poi ha lavorato su queste questioni, sull'importanza di andare al di là del PIL, quindi ampliare, no, lo spettro di indicatori e di statistiche, e però è solo nel 2011, quando il Better Life Index, che è stato creato, che si è deciso di introdurre la dimensione delle relazioni sociali, e chiaramente lo si è fatto anche perché ovviamente la società di oggi, la vita di oggi è condizionata fortemente anche dai social network, quindi naturalmente questo deve essere rispecchiato poi nelle misure e nelle statistiche che cercano di descrivere nella miglior maniera possibile la vita delle persone. Banalizzo, rende più felice avere più amici che più soldi? Rende più felice avere più amici che più soldi? Sì, la risposta è sì. Ah, sì. Chiaramente i soldi contano, e ovviamente contano per le persone che hanno di meno nei paesi più poveri, però sicuramente per la persona, soprattutto, diciamo, quando un certo livello di reddito è stato raggiunto, quello che dà più felicità è avere amici, essere circondato da altre persone. Uh-huh. Romina, capisco che sia una fotografia complicata, però guardando l'Europa ci sono tassi di felicità diversi? Assolutamente, diciamo, se dobbiamo riassumere, il nord dell'Europa, quindi i paesi nordici, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, sono tra i paesi più felici, non solo in Europa, ma, diciamo, del mondo intero. La Svizzera è anche un paese dove i livelli di felicità, la soddisfazione personale è tra più elevati, e invece i paesi del sud dell'Europa, inclusa l'Italia, ma anche la Francia, riportano dei livelli di soddisfazione più bassa, quindi sicuramente c'è un gradiente europeo e una differenza tra i paesi e le regioni in Europa. Mm-hmm. Romina, ma introdurre questi nuovi indicatori porta anche a vedere l'economia in maniera diversa? Certamente porta a vedere l'economia e in maniera più generale, diciamo, le politiche in maniera diversa. Una delle ragioni fondamentali per le quali l'OCSE ha costruito il Better Life Index è per cercare di apportare alle politiche, alla costruzione delle politiche, una base informativa più ampia. Le politiche, ma anche poi la comprensione dell'economia, tutto si basavano un po' tanto su un modello molto classico, un modello per esempio di razionalità classica, quindi i cittadini consumano, lo fanno, no, sulla base di un calcolo razionale. Ora, naturalmente nella realtà le cose sono molto diverse, quindi prendere in conto per esempio le motivazioni, che non sono motivazioni solo economiche, ma una serie di diciamo, di elementi di più ampio respiro, naturalmente permette di spiegare meglio anche il comportamento delle persone e quindi poi anche il comportamento dell'economia. E una ricaduta importante è quella sulle politiche, perché se le politiche poi sono in grado di intanto essere fatte a partire da una migliore fotografia della società, ma anche di prendere in conto quelle che sono le preferenze, la visione di benessere dei cittadini, naturalmente, no, la struttura poi della politica può cambiare in maniera radicale. Chiudiamo con l'Italia, siamo una nazione felice? L'Italia ha, diciamo, in termini di benessere sicuramente ha dei punti di forza, sì. È un paese che rimane comunque relativamente, diciamo, ricco in termini sia di reddito che di ricchezza poi strettamente finanziaria, ha dei punti di forza per esempio sul quello che noi chiamiamo l'equilibrio equilibrio vita-lavoro, ha dei punti di forza per esempio sulla salute, è tra i paesi in Europa con l'aspettativa di vita più ampia, più lunga, ci sono però dei punti di debolezza, la soddisfazione, quindi ancora una volta l'elemento di benessere soggettivo sicuramente non vede l'Italia tra i campioni europei, nel senso che gli italiani sono meno soddisfatti della media OCSE, della media europea. Certo, questo insomma si fa il confronto anche con gli altri. Grazie davvero a Romina Boarini, economista dell'OCSE, e buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao. E con questo inno alla felicità chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Miriam Lucchetti, che con me ha scritto la puntata insieme a Silvia Righini, Pietro Lacorte, oggi la parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito, da lì potete riascoltare la puntata e trovare tutte le informazioni sugli argomenti toccati, oppure tutto ciò lo ritrovate anche sui miei account Facebook e Twitter. Ancora buon sabato, ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.